e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E signori e signori, siamo a Ristorato Convento in compagnia di questi ragazzi che sono desaparecidos praticamente, giusto? Sì, assolutamente, più o meno sì. Sono ricercati da quanti giorni? Boh, forse due, tre. Due, tre. Non sappiamo neanche noi. In giro per l'Italia praticamente, no? Penso anche noi le nostre tratte. non vi ritrovate neanche voi praticamente. Per il nord Italia, sì. Fantastici. Allora, abbiamo uno sposo che si chiama? Giacomo che vieni da? Padova. Poi abbiamo? Jacopo. Che vieni da? In teoria provincia di Ferrara, in teoria. Però ecco, non si ricorda più neanche. Più che altro se ci fai un appello per il terzo sposo disperso, Giulio. Esatto, perché l'abbiamo perso veramente stavolta questo. Si chiama Giulio, veniva da? Verona. Ah, quello più vicino allora. Sì, okay. Sì. Solo che dopo aver aspettato circa mezz'ora qua fuori dalla radio, quando è arrivato il suo turno è andato via. Che gli è bastato un prosecchino. Perso. È stata colpa del prosecco. Troppo l'aspetto. Ok. Dopo i due sposi abbiamo qui dentro che abbiamo. Abbiamo due fedelissimi della squadra del calcio in cui io giocavo. È vero, perché voi siete dei professionisti anche nel calcio. Io. Cioè veramente. Abbiamo un'ala destra. Abbiamo un portiere rapper margine. È un mister. È quello disperato il mister. È lui. Appena deciso di nominarmi capitano, lo possiamo dire qui in diretta. Sono il capitano del periodo. E quell'altro con la camicina bianca. Il vice capitano. Ciao vice capitano. Come si chiama? Potete insultarlo se volete. Pitta. E il capitano come si chiama? Sono io. Ah no, scusa, il mister. Mister Paolo. Giusto? Volete cantargli qualcosa? Aspetta, per fare un freestyle. Mister Paolo. A novembre diventerà padre. Attenzione! Lo sa lui? Sì, lo sa. No, perché magari... Lo sa. Che fate? No, è bello perché ci parliamo a gesti con quelli fuori. È bellissima questa cosa. È bellissima. La comunicazione come si chiama? Non verbale. È fantastica, la vediamo solo noi. Tra l'altro noi sembriamo dentro un acquario, no? Giusto? Sì, siamo dentro. E anche gli altri? Sembrano dentro un acquario. Ma come si chiama la squadra? Ferriole 92. Sì, quindi abbiamo detto siete quasi professionisti, da quello che ho capito. Sì, ma tipo... dipende su che... Ci saranno 24 categorie da lì a professionisti. È un attimo arrivare su. Se la metti sul bere birre siamo i migliori. Ah, sul bere birre siete migliori. Tanto anche il mister giustamente festeggia così. È uscente. Si è dimesso? Sarà festeggiando la retrocessione. Siamo retrocessi quest'anno. Siete retrocessi. È per colpa sua. Ah, pure colpa del mister. Perfetto, mi piace la stima che avete nei confronti del mister. Ricordiamo il nome del... È reciproca la stima. Ricordiamo il nome del mister che... Paolo. Soprannome? Panez. Ah, il panez. Fa il fornaio? No, non c'è niente. Però ha sfornato. Ha infornato. Così dicono. Speriamo che sia suo. Vediamo se nasce che parla di calcio. Ecco. Ok. Allora, lui, la sua è la tecnica, cos'è? La zona quella, la Oronto Canà, gioca lui? 5-5-5. Immaginavo che... dettava questi schemi. Quindi siete arrivati ultimi, retrocessi. Penultimi. Qualche soddisfazione bisogna prendersela. Play out perse tutte, fine. Quindi peggio della terza categoria non c'è più niente. Come la Fenice noi risorgeremo. Non c'è più niente. Risorgerete. Come la Fenice. È una promessa? Certo. Sì. Sfonderemo nel calcio, sfonderemo nella musica. Esatto, a proposito di sfondare nella musica, ricordiamo che avete un componente della vostra squadra che è anche un illustrissimo, un grandissimo rapper. Sì. Ah, il portiere? Il portiere, tra l'altro. Ah sì, perché quei guanti lui quando si mette lì a rappare, no? Metto un guanto solo come Michael Jackson. Allora, diciamo che non para niente. Non para niente. Canta anche in partita, rappa, ma non para niente. È lui, l'hanno riconosciuto. Non mi sono trovato bene con gli schemi nuovi e non sono riuscito a entrare in questo nuovo schema di gioco. Il possesso palla per me è fondamentale, ragazzi. Dai, se vuoi faccio un pezzo. Ma sì, esatto, però ditemi il nome d'arte, perché per quei pochi ancora che non lo conoscono, giustamente non ce l'ha, no, mister ce l'ha Margine. Ah, si chiama Margine? Facciamolo presentare. Esatto. Se va presentati bene. Beh, non credo di aver bisogno di presentazioni, però... Cosa stai studiando? Sto studiando lingue. Da quanti anni? Beh, direi che stasera ho approfondito parecchio, comunque... manca solo il pezzo di carta. Ma quindi, scusa, in arte sei? Margine. E cosa fai? Faccio quello che gli altri non riescono a fare. Il rap fatto come si deve. Sì. Che non è il trap. No, la trap è un'altra cosa. Il trap è... È un po' come Paolo che vuole farci tiki-taka e invece... Lo lasciamo fare a Barcellona. Ecco, solo a Barcellona. Ok. No, mi piace sta cosa, ma giustamente adesso il pubblico da casa vuole ascoltarti. Vuole avere... È naturale. La curiosità è a mille, dopo... Noi ci fidiamo di lui. Anche perché ci porta un inedito. Assolutamente. Ah, no, porterò un freestyle. No. Ce lo dedica. Ragazzi, ci dedica un freestyle, Ce l'avevi detto però. Canta il singolo senza ritornello. sono emozionato io, ragazzi. Margine, il microfono è tuo. Vai. Siamo pronti? Ci siamo. Bella base, Jacopone. Parto sulla base e poi prendo il volo, ma non sono stabile come la panchina di Panizzolo, che adesso mi guarda male oltre il vetro, adesso vado avanti, lo sai che ti annientò. Ah, Margine, rima contro vento, mai contento se non al convento, al convento che mi tira sulle mani, siamo qui i peggiori padovani. Ok, rima più amara, facciamo casino a Bologna e Ferrara. Oh no, hai capito? Era un test, andiamo a Ferrara. Spoiler alert. Oh! Ragazzi, un applauso. Ce l'abbiamo noi qua stasera al convento di Renato, il miglior rapper in circolazione. Margine. Non ringraziatemi. Sono momenti toccanti. Veramente. Il segno della croce, se siete in ascolto. Veramente, immagino a casa l'emozione. Non abbiamo neanche avvisato di accostare, se c'era qualcuno che stava ascoltando in auto. Bravo, perché l'emozione è talmente forte che può creare anche queste cose. E in ogni caso, segnatevi il nome perché sentirete parlare di lui. Ecco, in questura. Potete anche tatuarvelo, Ecco, Margine. Se avete soldi di investire, investite su Margine. Che... uscirà il mio nuovo album insieme alla laurea, quindi aspettate che... è il titolo aspettate. C'è gente che aspettate. È il mio nuovo album. Aspettate. È appena uscita, calma. Esatto. Non ce l'abbiamo adesso, però con calma, anzi cercherò di mettere qualcosa del tuo album appena esce. Lo metteremo subito Una promessa è una promessa. Noi ci teniamo tutti a questo. È sconvolto lo sposo. Ti ha distrutto stare vicino a Margine. Sono tre giorni che sono sconvolto. Fantastico. Nel frattempo non è sbucato quello vero, l'altro? No. Vorrei lanciare un appello ai miei ascoltatori, ai miei fan. Trovate Giulio Benedetti. Meno 10 punti in classifica generale. Vorrei dire che oramai Giulio è quarto comunque. Jacopo, puoi spiegare la storia della classifica? Al microfono. Allora, effettivamente ci siamo tre sposi, ok? Sì. E i nostri amici, nonché alcuni sono testimoni, hanno proposto una gara tra tre sposi, no? Ok. Quindi ogni giorno c'è una o due o tre prove, dipende dalla giornata. 4-5. Sì, un disastro. E niente, c'è una classifica, ogni gara c'è un punteggio. Visto che Giulio Benedetti non è venuto qua, quindi, ed è disperso e una roba e un'altra, niente, io gli darei. Cioè, Giulio è a meno 10 in pratica. No, lui è ultimo. No, forse anche di più. Cioè, al di là del fatto che è ultimo, io gli darei. Sì, aver mancato la radio. Una qualche penalità, perché. Però elogio la somma giuria, perché non posso andare contro la somma giuria, come lei, io. Perché sono dei bravi ragazzi. Però ragazzi, cioè, si troverà una chicca, che il vostro intervento in radio lo potrà riascoltare. Esatto. Giulio, se ci sei, noi ti pensiamo. Ricordalo. E sappi che sei ultimo. Per sempre nei nostri però cuori. C'è ancora domani, giusto? Anche perché vige la regola che chi segna per ultimo vince. Ah, funziona così. Il Feriole va avanti così. Grande Feriole Calcio, grande Feriole Calcio che risorgerà. Speriamo. Giusto? Ok, dai. Salutiamo il vostro pubblico che vi verrà. Saluto i miei fan, gli emarginati. Si chiamano così. Merde. I fan di margine si chiamano gli emarginati. Grandissimo. Grandissimo. Venite a ascoltare. Ho inventato il grunge. Grande, poi salutiamo Jacopo, lo sposo. Grazie mille, è stato un piacere. Do un bacione alla mia compagna Alessandra. Bravo. Che sicuramente li sta ascoltando. Certamente, non credo. E alla mia bimba Greta, lei sì che mi starà ascoltando. A quest'ora, quasi due anni. Esatto. Speriamo di no. Gli mando un bacione e un saluto speciale ai miei testimoni Paolo e Nicola. Perfetto, bravo. Poi facciamo salutare anche lui e il trovatello, che questo. Tu saluti qualcuno? Riccardo, così? Saluto. Non sei obbligato, eh? No, saluto lo stesso mio amoroso Tania. Bravo, che tenero. Sicuramente anche lei mi starà ascoltando. Sicuramente. Non sa dove sono, ma mi sta ascoltando. Perfetto. E poi l'ultimo sposo. Io adesso ho tagliato, quindi saluto la mia futura sposa. Betta, la mia bambina Anita, che sicuramente. Ma scusa, non si chiamava Martina? No, quella è di Giulio. Sì, non mi parla. Sì. Avete scambiato le spose anche. Aspetta, adesso? Però quella di stasera come si chiamava? Monica? Tutto è possibile. Monica tanta roba. Vorrei salutare anche Monica, che forse è ancora in macchina, perché torna. Molto carina, e altro numero, vediamo come va. Siamo anche in cerca di una Beatrice. Cioè, no, l'abbiamo trovata. Ok, una Beatrice valeva 10 punti. Ah, ok, va bene. Questo è un po' il riassunto della serata. Ma... sempre per la classifica generale. Per la classifica, eh. Mister, non mollare, questo messaggio... È per te. Sei tutti noi. E comunque Giulio non è ancora arrivato. Ehi Giulio, dov'è? Ehi Giulio, dov'è? Giulio, fantastici. Ciao, ci sono le due gnocche, sono arrivate. Aspettavamo proprio voi. Notato che si sta appannando tutto. Temo mi abbiano riconosciuto. Sì, l'ho visto, sono un po' emarginato. Ok, va bene. Un saluto alla Feriola Calcio che vada in Serie A, mi raccomando.